deve sempre per forza parlare d'amore, si deve sempre comunque far nascere il sole, è necessario far credere di fare del bene, è necessario donare le rose, ripeto, bisogna sempre per forza parlare d'amore, si deve sempre comunque far nascere il sole, è necessario far credere di fare del bene, è necessario alle feste donare le rose. Beh, io onestamente provo anche odio, la mia vicina che reclama, odio, per il frastuono che procuro, odio, e questa è una canzone sull'odio, è un sentimento umano e duraturo, odio, quando sono esasperato, odio, e non mi sento esagerato, odio, sinceramente sono fiero, odio, forse ero un po' sincero, odio, e non riesco a modo parlarne, odio, poi sembra di essere gli stronzi, odio, è veramente un paradosso, odio, forse meglio lascia stare, odio, basini le sue ansie, odio, e provo tutti i sentimenti, odio, oltre ad amare e tollerare, odio, quando mi portano ad odiare. Tentare di farsi accettare, si deve sempre scrivere solo testi d'amore, è necessario ogni volta mentire al nostro cuore, non sarebbe meglio liberarsi e confessare, bisogna sempre tentare di farsi accettare, si deve sempre scrivere solo testi d'amore, è necessario ogni volta mentire al nostro cuore, non sarebbe meglio liberarsi e confessare. Beh, io sinceramente provo anche odio, la mia vicina che reclama, odio, per il frastuono che procuro, odio, e questa è una canzone sull'odio, è un sentimento umano e duraturo, odio, quando sono esasperato, odio, e non mi sento esagerato, odio, sinceramente sono fiero, odio, forse ero un po' sincero, odio, e riesco a non parlarne, odio, poi sembra di essere gli stronzi, odio, è veramente un paradosso, odio, forse è meglio lasciar stare, odio, ma si tiene sue ansie, odio, e provo